Credo sia doveroso da parte degli artisti classici trovare oggigiorno nuove maniere di avvicinare questa nostra musica a un pubblico che, si deve dire, non la mastica tutti i giorni, probabilmente. Penso soprattutto ai miei coetanei, ai giovani che non hanno magari mai avuto occasione di avvicinarsi a questo genere. Io credo che iniziative come questo, portare la musica fuori dai teatri e credo che portarla in luoghi dove si può fruirla quasi come a un concerto pop, un concerto rock, in mezzo a tante persone, sia un esperimento notevole. Ad ogni modo, quello che un interprete può fare, quello che un musicista può fare, è cercare appunto di portare al di fuori del teatro questa sua passione, cercare di far conoscere in tutte le maniere questo tipo di musica, soprattutto cercando di far comprendere che non è tanto una questione di cultura. Non sono qui per fare lezione ai miei coetanei su questa musica, io sono qui per far capire loro che è un mondo che può veramente comunicare delle emozioni profonde. In un certo senso, dove sta la grandezza di questa musica? Ogni uomo è solo, è un po' un'isola, rispetto agli altri e prova delle emozioni, prova delle sensazioni. Nel momento in cui si ascolta questa musica, ci rendiamo conto veramente che altre persone hanno vissuto i nostri stessi traumi o le nostre stesse felicità, i nostri stessi drammi, le nostre stesse esaltazioni e in un certo senso non siamo più soli, comunichiamo con queste grandi anime.